Cantine di Franciacorta. Bentrovati dalla Franciacorta, siamo alla cantina Le Cantorie a Gussago, cantina giovane in tutti i sensi, attività iniziata da qualche anno con 60.000 bottiglie prodotte ed Elisabetta Bontempi, 24 anni, alla guida della cantina. Giovane come giovani sono i suoi collaboratori, enologo compreso, uno spirito giovane che entra in produzione. Ma secondo me questo è il nostro punto di forza, perché comunque siamo molto affiatati, appunto perché abbiamo più o meno tutti la stessa età, quindi riusciamo a intenderci meglio anche nel lavorare, e in più cerchiamo di dare al nostro vino questa nostra nota giovanile. Sia nel vino, anche appunto abbiamo fatto questa nuova linea di bottiglie che sono molto diverse dal solito e vogliamo appunto distinguerci, appunto per dare forza a questa nostra gioventù. È tutto, alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.